Ave Maria a tutti, carissimi ragazzi e ragazze all'ascolto, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio da Don Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovani dedicata ai 10 comandamenti, argomento che sta per volgere verso la dirittura di arrivo e che dovremmo esaurire nel giro, penso, delle prossime due, massimo tre puntate. Oggi concludiamo sicuramente l'argomento sul nono comandamento, che è già sufficientemente esaurito, ma vorrei presentare, perché tante sono le richieste che mi sono arrivate anche via internet o via altre fonti, diciamo così, un discorso possibilmente esauriente su un argomento che può essere un accessorio, diciamo così, del nono comandamento. Che è in particolare, diciamo così, come è opportuno o è preferibile, diciamo così, sotto altri aspetti, che una donna sia vestita in chiesa in particolare, dove andrebbero osservati, diciamo così, dei canoni un po' più impegnativi, diciamo così, rispetto a quelli che sono più che sufficienti per quanto concerne invece, diciamo, il portamento di una donna fuori dalle sacre mura dei sacri templi. Ed in particolare dovevo e volevo, scusate, affrontare il tema del velo delle donne in chiesa. Ecco. Oggi è abbastanza raro o obsoleto, anche se da qualche parte qualcuno mi dice che c'è una certa ripresa, vedere in chiesa una donna a capo velato. Chi lo fa, quelle rare persone che oggi fanno questa cosa, corrono, come dire, spesso e volentieri il pericolo di essere, come so, messe all'indice, ritenute eccessive, bigotte, le solite cose, no? Anacronistiche, perché dice questa è una cosa che era obbligatoria, ma adesso non c'è più, quindi non bisogna metterla, a che serve, non sta scritto da nessuna parte, ci sono tutta quanta una serie di obiezioni, per cui io desidererei presentare un discorso, possibilmente esaustivo, su questa materia. Ecco, perché su questa materia non è vero che non ci sono indicazioni, ce ne sono e come. Vedremo, alcune di queste sono molto autorevoli. Io farò un excursus che, come vedremo, partirà dalla Sacra Scrittura, perché San Paolo in persona fu il primo a raccomandare che una donna dinanzi a Dio tenesse coperto il proprio capo. Poi vedremo che questo discorso è stato addirittura ripreso e sancito, niente meno che non solo da un papa, ma dal successore in persona di San Pietro, cioè San Lino ha parlato e legiferato su questa materia. E infine io farò riferimento ad alcune rivelazioni private non riconosciute, quindi apparizioni della Madonna, premetto subito questo, che rappresentano però un accessorio, ecco, perché le fonti su cui mi invito a riflettere sono le prime due, cioè che sono assolutamente inoppugnabili, Sacra Scrittura e intervento di San Lino. E che quindi cercano di offrire, diciamo, un certo, come dire, tipo di discorso esaustivo in merito. E così chiudiamo il capitolo nono comandamento. Allora, cosa dice la Sacra Scrittura? Questa è l'obiezione che si. Allora, premesso, voglio premettere che, come vedremo, attualmente, diciamo così, le disposizioni sull'obbligo della donna di stare a capo coperto, che vedremo sono fondate nella Sacra Scrittura e sancite da un papa con un provvedimento che mai nessuno ha abrogato, diciamo che sono però attualmente non facenti parte della disciplina canonica della Chiesa, ecco, per cui non si può dire e non si deve dire che una donna che in Chiesa vada a capo scoperto pecca. Una donna pecca in Chiesa se va vestita al di sotto dei canoni doverosi di decenza che sono richiesti in un luogo sacro. Questo Quindi, se è sempre quanto mai inopportuno che veste in un certo modo, meno che mai, come possiamo capire, è opportuno che lo faccia nel luogo sacro, perché al peccato, come dire, che abbiamo visto nelle puntate precedenti, di abbigliamento indecente o di moda in vereconda, aggiunge l'aggravante seria della profanazione del luogo sacro, ecco, che è molto grave. Quindi le cose che vi dico rappresentano comunque, come dire, dei consigli, delle argomentazioni su cui riflettere. Ecco, perché noi non possiamo, da figli di Dio, io ritengo, semplicemente limitarci a ciò che è prescritto e ciò che non è prescritto. Voi sapete anche che la legge della Chiesa, sulla base dei 10 comandamenti, obbliga ogni fedele ad andare a messa tutti i giorni e a confessarsi una volta l'anno. D'accordo? Per cui chi non va, no, non obbliga ad andare a messa, obbliga ad andare a messa tutte le domeniche, esattamente quello che non volevo dire, scusate, e a confessarsi una volta l'anno. Però chi va a messa più di tutte le domeniche, certamente fa cosa migliore, più santificante. Se non lo fa, non fa peccato. Così come chi si confessa un po' più spesso che una volta l'anno, si confessa una volta al mese, meglio ancora se una volta alla settimana, si santifica molto di più rispetto a chi si confessa una volta l'anno. D'accordo? Ecco, così come i digiuni canonici nella disciplina della Chiesa attuale sono due. Mercoledì delle ceneri e venerdì santo, ne abbiamo parlato a suo tempo. Certo, chi fa il digiuno tutte le settimane o 2 volte a settimana, come più di qualcuno fa, meglio per lui, sicuramente si santifica di più e fa più penitenza, no? Quindi non affrontiamo questo discorso con una mentalità esclusivamente giuridica. Quindi non è obbligatorio, quindi chi se ne importa, sono tutte quante chiacchiere a vanvera. Non è obbligatorio in senso stretto, ma lo è stato per tanto tempo. Qui cercheremo di capire le motivazioni che stanno alla base di questo gesto, come dire, che è un gesto indubbiamente di mortificazione, che quanto pare è molto gradito dal Signore quando una donna si presenta al suo cospetto. Cominciamo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti 1, 6 e 13, 16, che io anzitutto leggo. Ci sono dei passaggi un pochino scuri, però quando si parla dell'argomento che stiamo trattando, il testo è abbastanza chiaro. Scrive San Paolo: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Vi lodo poi perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni, primo punto da notare, così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo e capo della donna è l'uomo e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole mettersi il velo, vedete come parla testualmente di questa consuetudine San Paolo, si taglia anche i capelli, ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. Giudicate voi stessi, è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa insegnarsi che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La chioma le è stata data a guisa di velo. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, io quest'ultimo trafiletto lo scriverei molto volentieri come stato su Facebook, perché oggi non sempre è molto chiaro. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le chiese di Dio. Allora, cosa dice questo testo? Ci sembra non tanto comprensibile a noi del XXI secolo, no? Allora, cominciamo dagli ultimi versetti. San Paolo scrive: i capelli lunghi sono gloria della donna, cioè, che significa, segno esteriore della sua bellezza e sovente anche espressione della sua vanità. Voi sapete, non voglio scherzare, che le donne ai capelli ci tengono tanto. Io scherzo sempre con le mie care ragazze, che sapete, dice: oggi c'ho da fare, cosa dobbiamo fare? Ah, oggi mi devo lavare i capelli. Quando si devono lavare i capelli, ragazzi e ragazze in ascolto, apriti cielo, perché c'è mezzo pomeriggio come minimo, o quando stiamo ai campi scuola, ah, mi devo lavare i capelli, 1 ora e mezza dentro al bagno con questi benedetti capelli, no? Io che non sono super dotato sotto questo argomento, insomma, mi risulta abbastanza strano. Quindi, per carità, quindi, sono un po' il distintivo, viva Dio, del genere femminile. E a volte, oggetto anche, come dire, di una certa compiacenza vanitosa, diciamo, non troppo grave, però che c'è in questa dimensione. Allora, coprirli cosa vuol dire? È un segno di mortificazione. D'accordo? Oppure, facciamo subito un esempio. Cosa fanno le suore quando entrano in convento o quando entrano in monastero? Vi ricordate, no? Cosa ha fatto San Francesco a Santa Chiara? L'unica cosa che gli ha fatto è gli ha preso e gli ha tagliati i capelli. Che significa questo gesto? Tu stai facendo una vita di consacrazione a Dio e quindi per amore di Dio rinunci a questo segno di vanità esteriore. Ovvio, una donna che vive nel mondo non può tagliarsi i capelli, qui San Paolo parla chiaramente per antonomasia, ma quando compare alla presenza di Dio fa questo gesto di mortificazione per dire davanti a Dio la vanità esteriore non conta, conta la bellezza della mia anima. E davanti a Dio io rinuncio, come dire, a questo segno di bellezza esteriore che potrebbe attrarre l'attenzione di qualcuno, si spera possibilmente di sesso maschile, chiusa parentesi, e che quindi dalla mia bellezza e dalla mia avvenenza, in qualche modo polarizzata, ecco, dall'acconciatura e dalla bellezza dei miei capelli, potrebbe essere rappresentare, insomma, una fonte di distrazione per chi sta a sua volta alla presenza di Dio. Ok? Per l'uomo era esattamente il discorso contrario. Avete visto, per esempio, quando un vescovo, avete visto che i vescovi, i cardinali, il papa portano lo zucchetto in testa, no? Però se ci fate caso, state attenti, se c'è il Santissimo Sacramento esposto, oppure durante la messa, avete visto, fateci caso, se non ci avete mai fatto caso, quando comincia il prefazio, quindi la preghiera che precede immediatamente la consacrazione, la preghiera eucaristica, c'è sempre il cerimoniere o qualche ministrante che si avvicina al vescovo e gli toglie lo zucchetto. Fateci caso. E lo zucchetto non lo può portare fino a quando non è stata terminata la distribuzione della Santa Comunione, cioè fino a quando dinanzi a lui c'è la presenza reale di Gesù, lui deve stare a capo scoperto, rigorosamente. Non può avere il capo coperto, perché per l'uomo è esattamente il contrario, perché per l'uomo tradizionalmente, ecco, vale esattamente il contrario di quello che vale per la donna, d'accordo? Quindi stare a capo coperto sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di nostro Signore. Ecco perché questa copertura sul capo da parte di un ministro di Dio implica simbolicamente il ruolo di autorità che ha nella Chiesa. Avete visto che i vescovi hanno la mitria in testa e tutte le altre cose, eccetera, eccetera. Quando non hanno null'altro gli resta questo segno esteriore, no? Ma siccome dinanzi a lui c'è chi è più grande del vescovo, perché Gesù Cristo fino a prova contraria è più grande del vescovo e anche del Papa, quindi quando sto in sua presenza la testa è completamente scoperta, perché lui è più grande di me, è più grande di tutti. Ok? Allora, quindi questo è il tipo di discorso. Quindi, mentre per un uomo sarebbe grave mancanza di rispetto a Cristo coprirsi il capo dinanzi a lui, per una donna sarebbe invece mancanza di riverenza verso nostro Signore gloriarsi dinanzi a lui della bellezza esteriore e quindi non riconoscendo al suo cospetto il primato dello spirito e dello spirituale rispetto alla vanità dell'esteriore. Per questo che San Paolo afferma che non è conveniente. Attenzione, non sta dicendo è peccato, un conto è essere peccato, un conto è essere conveniente, per cui è preferibile, sarebbe opportuno che una donna non faccia la preghiera davanti a Dio a capo scoperto. Ecco, ok? Quindi, attenzione, quindi portare il velo in chiesa, stante questa prima, come dire, ricostruzione biblica, è segno esteriore con cui si riconosce il primato dello spirito. Perché nostro Signore, anche alla più bella donna della terra, guarda l'anima, non guarda la bellezza esteriore. Si mortifica la vanità esteriore, che un giorno o l'altro, almeno fino a quando siamo in questa carne mortale, dovrà comunque dissolversi perché il nostro corpo morirà, e si esalta e si afferma la santità intemerata e incorruttibile al tempo stesso dell'unione nuziale, perché c'è anche un po' la dimensione che per una donna coprirsi il capo significa riconoscere, lo dice qui San Paolo, qui si aprirebbe un altro capitolo grosso che però abbiamo fatto sul sesto comandamento, cioè che vuol dire il fatto che la donna, per per volontà di Dio dentro il consorzio matrimoniale, tutti i guai che ha passato quella scrittrice Costanza Miriano con il libro Sposa di sì sottomessa, cioè non è che deve essere schiavizzata o cose di questo genere, ma come dire, affianca il marito in una condizione di sereno riconoscimento del suo essere il capo famiglia, quindi mette a disposizione della famiglia la risorsa dell'amore, mentre l'uomo, degno di questo nome, dovrebbe assumersi l'onore e l'onere della responsabilità e dell'autorità dentro casa. Ecco. E questo è un gesto con cui la moglie anche pubblicamente lo riconosce. Quindi indirettamente, specialmente quando una donna è sposata, si esalta e si afferma anche la santità intemperata e incorruttibile dell'unione nuziale. Ecco. E anche il fatto che io in chiesa, sia che sono sposata che non sono sposata, non mi metto in condizione di essere guardato dagli uomini. Gli uomini che stanno in chiesa devono pensare a pregare al Padre Eterno, d'accordo? Ecco. E certamente, insomma, una donna che ha il capo velato e che è vestita in un certo modo, almeno, cioè, certamente poi se c'è stato qualche maniaco pervertito, questo non è colpa sua, ma certamente non fa nulla, e in nessun modo, in nessun caso, diciamo così, né sia pur minimamente, si può dire che provochi l'attenzione dell'uomo. Ok? Interessante che San Paolo dice, chi ha il gusto della contemplazione si ricordi che noi non abbiamo questa tradizione e questa tradizione non è consuetudine nelle chiese di Dio. Perché dice questo qui? Perché uno potrebbe tranquillamente contestarle queste cose dicendo, va bene, ma se questa non è una cosa obbligatoria, ma se questa non è una cosa indispensabile, che bisogno c'è di farlo? San Paolo lo ha già precisato, che non si tratta di una cosa, come dire, de fide o de moribus, cioè che se uno non lo fa è eretico, se uno non lo fa pecca mortalmente o va all'inferno. Sta parlando di una cosa che è conveniente fare, d'accordo? Quindi conveniente vuol dire che è cosa migliore e che è più gradita a Dio, niente di più e niente di meno. Ferma restando che poi ogni singola signorina, anche oggi, che ascolta queste cose, è libera di elaborarne e di agire di conseguenza, in un modo o in un altro. Non si tratta di cose obbligatorie. Invece, però, poco dopo queste lettere, il successore di San Pietro, San Lino, sancì con l'autorità di sommo pontefice, però, questa raccomandazione di San Paolo come obbligo canonico per tutte le fedeli cattoliche. Per questo che fino a qualche tempo fa mia nonna aveva il velo, mia madre anche aveva il velo suo personale, che ha dismesso. Intorno alla fine, quando queste cose sono cadute in desuetudine, che a quanto mi hanno raccontato, perché io non c'ero, non ero ancora nato, era la fine degli anni 60, l'inizio degli anni 70, ma mia madre ce l'aveva questa cosa qui, d'accordo? Mia mamma è del 20, perché anche se è morta, adesso vive una vita differente, è del 1930, quindi fino a 40 anni andava tranquillamente in chiesa col velo. Allora, questo Papa volle, come dire, attrarre nell'ambito dell'obbligatorietà canonica, voi capite che una cosa che è obbligatoria secondo la legge canonica non vuol dire che è obbligatoria secondo la legge di Dio, è la legge della Chiesa, quindi la legge della Chiesa può cambiare, capite? Perché è legge umana anche se è legge della Chiesa, quindi può essere che una data disposizione sia vincolante fino a oggi, così che capiamo anche un pochettino il discorso della legge della Chiesa, e può a un secondo momento cambiare, no? Faccio sempre l'esempio più comune della comunione in mano, pratica come è noto mi trova non molto favorevole, tanto per dire un eufemismo, fino a 50 anni fa era tassativamente proibito ad ogni non sacerdote toccare l'ostia, adesso la Chiesa l'ha consentito, se come spero tra 5 anni sarà di nuovo non consentito, la legge della Chiesa sarà su questo ulteriormente cambiata, d'accordo? Non è diritto divino, ecco, questo è semplicemente un problema di convenienze, di opportunità e di scelte che si fanno circa una maggiore custodia della sacralità e del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, no? Che può essere tutelata o meno a seconda della maggiore o minore riverenza con cui ci si accosta. E con cui si trattano chiaramente le sacre specie, no? Teniamo anche presente un'altra dimensione, Quindi Sanlino compie questo gesto, che adesso vi leggo, lo troviamo anche scritto nel martirologio romano, del 23 settembre, che è il giorno in cui la Chiesa commemora la memoria liturgica di Sanlino, Papa e Martire. Ecco, io chiaramente il testo è tradotto dal latino, chi conosce il latino insomma vuole andarlo a vedere, basta che cerca il Martirologium Romanum. Data appunto 23 settembre 1900, scusate, non 1900, 23 settembre di qualunque anno, insomma, no? Ecco. Allora, questo si trova comunque nel Breviarium Romanum del 1962, il giorno 23 settembre, è la lettura, la terza lettura del mattutino, quella che riporta, diciamo così, le vest gesta del martire del giorno. Lino Papa, nato a Volterra in Toscana, fu il primo dopo Pietro a governare la Chiesa. Nel canone romano, che è la preghiera eucaristica 1, è il primo ad essere nominato dopo il gruppo dei 12 apostoli: Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, eccetera, eccetera. No? Fu di così grande fede e santità che non solo scacciava i demoni, ma anche richiamava a vita i morti. Quindi pare che San Lino, oltre che grande esorcista, avesse anche operato dei miracoli di risurrezione in vita. Scrisse gli atti del beato Pietro, in particolare e soprattutto quello che fece contro Simon Mago. Ecco il punto che ci interessa. Decretò che nessuna donna entrasse in chiesa se non con il capo velato. Questo pontefice fu decapitato per la costanza della sua fede, su ordine del malvagio e ingrato governatore Saturnino, la cui figlia aveva liberato dalla vessazione del demonio. Fu sepolto in Vaticano, presso la tomba del principe degli apostoli, il 23 settembre. Regnò per 11 anni, 2 mesi e 23 giorni. Sono stati creati, 2 volte nel mese di dicembre, ordinò 15 vescovi e 18 sacerdoti. Ok? Quindi questo è quanto scrisse. Vedete, anzitutto questo decreto, ecco, di San Lino non è stato mai esplicitamente abrogato da nessuna legge canonica, mai, né da pontefici né dal Concilio Vaticano II, che viene sempre messo in mezzo anche a sproposito, no? Ecco, il Concilio Vaticano ogni tanto con l'ignoranza qualunquistica che c'è in giro, quando uno non sa che dire, quando deve giustificare qualunque sciocchezza e stranezza che si faccia nel mondo moderno, c'è stato il Concilio Vaticano II. Io ho detto tante volte che sono favorevolissimo al Concilio Vaticano II, uno dei 21 concili della Chiesa Cattolica, né più né meno degli altri 20, quindi da recepire pienamente in perfetta armonia e concordia con gli altri 20. Ma il Concilio Vaticano II, andate a leggere dalla prima all'ultima lettera, non dice una riga sul velo delle donne, né sull'eventuale abrogazione, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi l'ignoranza, proprio nel senso etimologico del termine, quindi non sapere quello che si dice, è sempre un grave male da combattere. Quindi non c'è stato nessun Concilio Vaticano II, nessun Papa nemmeno, che abbia abrogato o cancellato questa disposizione, che è, lo si ribadisca, di natura disciplinare. Disciplinare significa che non è di fede definita, quindi è di legge ecclesiastica. Però, come noi capiamo, ha radici apostoliche, come chiaramente si vede dal testo della lettera ai Corinzi, e vanta un'obbligatorietà canonica sancita dal primo successore di San Pietro. Questo indubbiamente sono dati di fatto, quindi uno può prenderli come vuole, può dargli la rilevanza che crede, però, come sempre, noi dobbiamo fare discorsi sulla base non di chiacchiere, possibilmente, o di nostre opinioni e idee personali, per quanto rispettabilissime, ma sulla base di quello che ci risulta dalle fonti. Le fonti sono queste due. E non c'è stato niente, nessuno che le abbia, come dire, direttamente, palesemente, incontrovertibilmente contraddette o cancellate, cosa che se sarebbe indubbiamente in teoria possibile per il decreto di San Lino, perché è un decreto disciplinare, quindi un pontefice avrebbe la possibilità di poterlo abrogare e sostituirne con un altro. Certamente non è possibile, ovviamente, con il testo della prima lettera ai Corinzi. Siamo arrivati alle 17 e invito tutti gli ascoltatori ad unirsi con me per recitare insieme, come sempre, l'Ave Maria. Ave Maria. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendiamo. Io adesso a questo punto vorrei, prima di passare oltre, permettermi di stigmatizzare, come dire, alcune stranezze di qualche nostro fratello e sorella che sta sempre a, come dire, in nome di una certa visione non del tutto corretta di Chiesa, ecco, sta sempre a contestare tanti aspetti della tradizione, in nome del ritorno agli usi della Chiesa delle origini. Adesso questo discorso non mi sembra tanto diffuso a livello ecclesiale, ma fino a qualche tempo fa c'erano fior di personaggi, fior di movimenti ecclesiali che stavano sempre a dire dobbiamo tornare alla Chiesa primitiva, dobbiamo tornare alla Chiesa primitiva, il fervore della Chiesa d'origini, la Chiesa in 2000 anni ci ha messo un sacco di sovrastrutture, un sacco di cose inventate, eccetera, eccetera, e dobbiamo tornare alla Chiesa d'origini. Scusate, dobbiamo tornare alla Chiesa dell'origine su tutto, meno che su questo. Ne parla San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Ne parla San Lino, successore di San Pietro, perché questi gruppi che incarnano, diciamo, una loro, ecco, diciamo così, idea della modernità, modernità che in se stessa non è cosa negativa, ci lo tengo a ribadire. Purché non diventi modernismo, così come tradizione non è mai cosa negativa, purché non diventi tradizionalismo, ecco perché tutti gli ismi sono tutti negativi. Ecco, allora, se ti piacciono tanto i cristiani primitivi, la prima cosa che dovresti dire a tutti quanti i membri dei tuoi gruppi, dei tuoi movimenti, oppure ai destinatari delle tue conferenze, care donne, San Paolo dice questo, uso apostolico. Prassi della Chiesa primitiva, tutte con in testa. Scusate, se dobbiamo tornare alla Chiesa delle origini, se no facciamo come sempre, ecco, che noi invochiamo gli argomenti, come dire, di un certo tipo a macchia di leopardo, cioè quando ci fanno comodo, in alcune cose sì, ecco, e quando in altre cose non ci fanno comodo, no. Questo non è un modo di procedere corretto, né da un punto di vista metodologico, né da un punto di vista logico, e né da un punto di vista del doveroso rispetto che noi dobbiamo nei confronti delle fonti a cui facciamo riferimento, che non possiamo citarle a spezzoni. Bisogna o quando ci fa comodo o semplicemente piegarle strumentalmente alle nostre idee. Quindi io ho una mia idea che devo portare avanti e cerco gli agganci da questa e da quell'altra fonte. Questo lo facciamo tutti, ecco, purtroppo a volte. Però non è corretto. Quindi se c'è qualcosa che me lo smentisce io devo prenderne atto e quindi io smetto di rifarmi al mito della Chiesa delle origini. Che tra l'altro lo stesso San Paolo, proprio nella lettera ai Corinzi, rompe, perché figuriamoci, ha dovuto riprendere la comunità di Corinto, perché lì c'erano diversi casi di peccati di incesto, lo trovate nella lettera ai Corinzi, non vi scandalizzate, vi prego, ascoltatori carissimi, d'altronde io questo, cioè, chiunque apre la Bibbia lo può leggere nelle lettere ai Corinzi, insomma, quindi non è che sto scandalizzando, raccontando una cosa ignota. Quindi questo mito di queste comunità cristiane primitive impeccabili non è assolutamente vero. C'era indubbiamente un grande fervore apostolico, c'era indubbiamente una grande abbondanza di carismi, sempre San Paolo ce lo dice, ma non è affatto vero che erano, come dire, delle comunità assolutamente perfette o assolutamente impeccabili. Erano figli di Dio in cammino, così come tutti. Ecco. E chiusa parentesi. Adesso andiamo alla terza fonte di riferimento, in base alla quale in alcune apparizioni mariane, non ancora ufficialmente riconosciute dalla Chiesa, però mai condannate, quindi volendo fare un paragone, sono la stregua, per esempio, delle rivelazioni della Madonna a Medjugorje o a Garabandal. Per chi conosce questi tipi di apparizioni, ci sono apparizioni che non hanno mai ricevuto l'approvazione ufficiale della Chiesa. Queste apparizioni sono oggetto di fede umana e personale da parte dei fedeli, cioè io sono libero di crederci o sono libero di non crederci. D'accordo? Certamente, se dovessi prenderle per buone e poi la Chiesa dovesse intervenire a fare una condanna esplicita, cioè consta la non soprannaturalità dell'evento, non consta la soprannaturalità, perché non consta la soprannaturalità, non voglio adesso fare una lezione di diritto canonico, è un giudizio allo stato degli atti, cioè vuol dire che dalle indagini fatte non posso ancora affermare con certezza che questo è un evento soprannaturale. Mentre quando dice consta la non soprannaturalità vuol dire che le indagini sono finite e io affermo che sulla base delle indagini fatte non si può affermare la soprannaturalità dell'evento, è diverso, perché è un giudizio definitivo questo e quindi è di presa di distanza, come dire, radicale della Chiesa e dell'autorità ecclesiastica da parte di una certa apparizione. Si tratta delle apparizioni di Maracaibo in Venezuela, apparizioni che per quanto mi riguarda sono molto belle. E sono molto interessanti e anche molto attuali. Il materiale di questa apparizione, per chi fosse interessato, si trova sul sito della parrocchia San Michele Arcangelo, che è il sito della parrocchia che il Signore mi ha indegnamente chiamato a presiedere. L'indirizzo web è www.parrocchiasanmichele.eu. Si trovano sia i PDF con il racconto, i vari file in PDF con il racconto dell'apparizione, eccetera, sia vari MP3. Per chi non avesse voglia di leggere, vuole scaricarsi gli MP3 sull'iPod o sul lettore MP3, quindi per ascoltare il racconto delle apparizioni, si trovano nell'area download sotto la sezione Apparizioni e messaggi della Madonna. Basta andare a cercare le apparizioni di Maracaibo in Venezuela. Si clicca, si entra dentro la sezione e si entra in contatto con tutto il materiale, appunto i PDF e gli MP3. Allora, anzitutto ci sono una serie di affermazioni della Madonna inerenti al discorso che abbiamo trattato la settimana scorsa, che era la decenza del vestire. Nei luoghi sacri, rivolte prima agli uomini, perché qua sennò poverine queste donne stanno sempre loro, e poi alle donne. I due veggenti di Maracaibo sono José Luis Mateus e Juan Antonio Gil, ricevettero dalla Mamma Celeste queste, diciamo così, raccomandazioni inerenti al modo con cui è opportuno presentarsi davanti all'altare del Padre Celeste. Loro scrivono testualmente, e qui cito virgolette: Nostra Signora invita i suoi figli maschi a vestirsi sempre con pantaloni lunghi e chiede loro di evitare di portare gli shorts nella casa del Padre suo, ma di indossare abiti che mostrino rispetto e decoro. Qui poverini ci vanno sempre di mezzo le donne, però in chiesa, qui non stiamo parlando di andare in giro, d'accordo? Io vi posso dire a pelle, non mi sono mai messo a fare battaglie o cose di questo genere perché, insomma, a me non è mai piaciuto vedere un uomo che entra in chiesa in pantaloncini corti, ma neanche in shorts, cioè in un abbigliamento un po' troppo casual, troppo, ecco. Non c'è bisogno certamente di entrare in chiesa in abiti firmati, o cioè, non è indispensabile andare in chiesa in giacca e cravatta. Bisognerebbe, perché io penso che se gli uomini in generale avessero un po' più di buon senso, non servirebbe fare queste raccomandazioni e fare questi discorsi che possono addirittura in certi momenti anche diventare forse fastidiosi. Io a volte mi urta un pochino doverli fare perché preferirei che trattandosi di cose, a mio avviso, facilmente comprensibili con un po' di buonsenso, sarei molto felice di poter constatare che ci si arrivasse utilizzando un po' di buonsenso, quindi senza bisogno di spiegazioni e di esortazioni, insomma, no? Su temi che, ripeto, possono diventare davvero fastidiosi fin quasi al ridicolo, d'accordo? Quindi, in chiesa è meglio evitare pantaloncini corti, o abbigliamenti tipici di un certo, come dire, modo di vestire un po' troppo casual, perché stiamo alla presenza di Dio. Io dico sempre: scusa un attimo, ma se tu stessi andando in udienza dal sindaco, scusa un attimo, tu andresti con i pantaloncini corti e l'infradito? Dimmelo, se tu ci andresti così. Però tu pensi che dal sindaco in udienza, dal consiglio comunale ufficiale, con tutta tanta la cosa, oppure dal Presidente della Repubblica, ti farebbero entrare così, gli inservienti, gli addetti? Dimmelo. Pensi di sì? Io penso di no. Prova. Quindi, se non ci si può entrare così, non si tratta di essere, di fare il culto formalistico, certamente che le cose principali non sono queste, quelle che guarda il Padre Eterno, perché tu puoi essere vestito benissimo e stai in chiesa con il cuore che sta completamente altrove, o addirittura stai quasi facendo uno sfregio al nostro Signore perché stai lì per fargli un favore, e certamente questo non è gradito a Dio, non basta averci l'abitino preciso. Ecco, quindi non basta, siamo tutti quanti d'accordo su questo qui, e non è che bisogna, come dire, dare una chissà quale grossa importanza a queste cose, però un minimo di decenza sì. Ma io ricordo, prima di diventare il prete, lo racconto sempre, ho lavorato per un anno in uno studio legale e l'estate c'era questo cartello, un cartello che io, se fossi stato un cittadino, mi sarei andato a lamentare perché è un'offesa. Per me leggerlo, ma se l'hanno scritto significa che ci sono state delle motivazioni tali per scriverlo. Il cartello era questo: è proibito entrare in udienza davanti alla corte in pantaloncini e zoccoli. Mi ricordo, non, era un pezzo di carta attaccato sui muri del tribunale. Cioè, tu vai in un'aula di giustizia, in un processo dove i magistrati hanno addosso la toga e gli avvocati, il pubblico ministero pure, ad esprimere, come dire, adesso ormai più tempo passa e più anche questi sani valori laici si vanno perdendo, non del tutto, perché ancora vedo in televisione che le toghe le portano durante i processi, cioè perché tu lì stai dinanzi ad una cosa seria, ad una cosa importante. Dentro le aule di giustizia si decide della vita delle persone, perché ti hanno una condanna penale, non è una cosa da nulla. E non è il modo, quel tipo di abbigliamento è consono e adatto se tu fai una cenetta alla casa, al mare, la sera, con gli amici, che si muore di caldo, e stai a fare una braciolata sul terrazzo, certamente che ti metti i pantaloncini e infradito. Ma in quel contesto va bene quel tipo di abbigliamento, non in un'aula di giustizia. Ma meno che mai, cioè, in chiesa, ma tu ci credi che in chiesa stai alla presenza di nostro Signore? E c'è sempre un sacco di gente che dice che i preti vanno in giro vestiti come gli scellerati, e io lo sento, dice, l'estate non si mettono manco la casula, stanno soltanto con la stola, dico, ah, il prete sì e tu no, sono perfettamente d'accordo. E dice, questi sono discorsi formalistici. Allora immaginate se io l'estate, ogni tanto quando qualcuno contesta queste cose, dico, va bene, adesso io allora domenica prossima esco a celebrare la messa in Bermuda, in short da mare, tanto io sono prete. Cioè, perché non è che se io esco a celebrare la messa in shorts da mare, guardate che la messa è valida, eh? Non vi scandalizzate quello che sto dicendo. Se io mi impazzissi e uscissi, guardate che la messa sarebbe valida. Perché quando io consacro, che ci abbia addosso una casula da 5.000 euro o stia in shorts, guardate che non conta assolutamente nulla sulla sostanza del sacramento. È evidente che è diverso il rispetto che io esprimo dinanzi al mio ministero e dinanzi alla presenza di Dio e dinanzi a cui sto, no? Non mi posso mettere a fare la consacrazione in shorts. Se poi io trovassi una spiaggia decente dove posso andare, cosa che non esiste, come ho già detto, senza pericolo di andare a fare peccati, e voglio farmi un bagno, certamente che vado in Bermuda da mare, posso mica andare con la veste da rara a farmi il bagno, no? Cioè, bisognerebbe arrivarci da soli a queste cose, io penso, no? È così tanto difficile, io dico. Sapete una volta cosa mi viene da dire? Una volta entra una persona in abiti un po' così, io con la carità di cui sono capace, che non è sempre eccellente, chiedo perdono a tutti anche in diretta radio perché dovrò migliorare, mi sto sforzando per farlo, vado a dire a questa creatura di Dio, dico, mi scusi signora, abbia pazienza, stare così in chiesa è un po' un problema. Sapete questa che fa? Mi guarda e mi fa, beh, ma guardi che qui mica stiamo in Vaticano, mica stiamo a San Pietro. Dico, guardi signora, con tutto il rispetto per San Pietro, per carità, e per il Santo Padre, che lungi da me volerla, però il problema di come è vestita non è una forma di rispetto a me, è una forma di rispetto a Gesù Cristo che sta dentro il tabernacolo. Guardi che Gesù Cristo che sta qui dentro, questa povera chiesetta di campagna, piccola piccola, ecco, da 50 persone sedute, non è diverso da quello che sta dentro San Pietro, è uguale. Io penso che bisognerebbe arrivarci, no? A queste cose. E anche gli maschietti, che pur non avendo, insomma, generalmente, non tutti, perché adesso in giro, specialmente in certi ambienti, guardate che la cosmetica maschile va molto, stanno diventando certi uometti, ovviamente non gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, stanno diventando più vanitosi delle donne, prodotti di bellezza, creme depilatorie, si depilano questo, si depilano quell'altro, vanno in palestra a farsi i muscoli tutti quanti definiti, perché quindi stanno assumendo delle modalità un po' preoccupanti, no? Che generalmente erano maggiore appannaggio del gentil sesso, ovviamente del gentil sesso non le ascoltatrici di Radio Buon Consiglio, ovviamente, no? Del gentil sesso di persone, come dice la Madonna, che ancora non hanno conosciuto bene o accolto bene nella loro vita l'amore di Dio. Allora, dopo la Madonna ne parla anche però alle signorine, chiede a tutte le sue figlie di presentarsi in chiesa vestite con gonne lunghe. Lunghe non vuol dire necessariamente lunghe fino ai piedi, ho visto l'ho detto la volta scorsa, come le nostre care suore, no? Certamente vuol dire non con le minigonne. E dei vestiti sobri e classici. Sobrietà oggi, termine che va oltremodo di moda, no? Ma la sobrietà non è soltanto non spendere troppi soldi perché dopo devono mangiare i poveri. Cosa comunque sacrosanta, la sobrietà è anche un certo modo di porsi, no? Sobrietà vuol dire in maniera non provocante e classici, normali, senza sottomettersi alle mode indecenti. Ecco, io davanti al cartello della porta della chiesa, anche questa è una cosa sommamente mortificante, ma però purtroppo, scusate, uno è costretto a farlo. Perché piuttosto che dopo dover andare a intervenire, che veramente lo si metterebbe sottoterra, spera che guardando i disegni, perché dopo un certo punto dice che cosa devo fare, il disegno, io penso che una persona intelligente basterebbe dire niente vestiti, usa vestiti sobri e classici. Se tu pensi a quello che ti sto dicendo, ci arrivi da solo, che se vai con la pancia di fuori o con l'ombelico scoperto, se vai con, come si chiamano adesso i leggings, con quei pantaloni iperattillati, che adesso non mi fate dire cose, insomma, particolari, che si vede non soltanto, cioè si vede tutta quanta in trasparenza la maglieria intima che c'è, ma ci vuole la scienza infusa per capire che questi non sono abiti sobri e classici, ci vuole il disegno, ci vuole. Purtroppo sembra che ci voglia il disegno. E nonostante il disegno, c'è pure chi il disegno non lo guarda. Allora, che vogliamo fare? Inoltre la Santa Vergine continua le preghe di evitare di presentarsi davanti al tabernacolo con abiti scollati, corti o aderenti. Qui già specifica. È evidente questo qui, no? Se uno va con una scollatura procace, dovrebbe arrivarci da solo che, a parte il fatto che anche fuori della chiesa io ho dei dubbi che sia consono portare abiti troppo generosamente scollati, ecco, perché ovviamente attirano, abbiamo fatto la volta scorsa il discorso, attirano indebiti sguardi, d'accordo? Queste le parole della Madonna, te testuali, di loro di presentarsi, vedete, umili e rispettose davanti alla presenza della Santa Trinità, che è sempre presente in ogni tabernacolo di tutte le chiese, che è sempre circondato da tutti i santi e gli angeli del paradiso. Anche io sono lì in adorazione del mio Divin Figlio. Primo tranche, diciamo così, di raccomandazione della Madonna su questa materia riguarda gli abiti. Poi passa a parlare direttamente del velo. La Vergine Maria ha espresso ai due veggenti anche una particolare richiesta da presentare a suo nome, attenzione, alle sue figlie di tutto il mondo, cioè di portare sempre un velo in chiesa. E dare spiegazioni. Maria spiega infatti che portando un velo alle sue figlie, qui comincia il virgolettato, quindi sono parole, sarebbero parole, non essendo un'apparizione riconosciuta della nostra Madre del Cielo, si presentano come le umili serve di Dio. Vedete? Umiltà. In tal modo esse ornano il suo tempio con la virtù dell'umiltà e distruggono alcuni dei numerosi attacchi che Satana infligge contro la Chiesa del mio Divin Figlio. Vedete? Perché la capigliatura delle donne, il discorso che facevamo prima, è il loro orgoglio e ricoprendola con il velo non solo si rivestono della virtù dell'umiltà, ma praticandola riescono a distruggere alcuni degli attacchi che Satana infligge contro la Chiesa Cattolica. Mi permettete un piccolo commento? Secondo quello che la Madonna starebbe dicendo in questo messaggio, non si tratta soltanto di umiliarsi come doveroso davanti a Dio e di non attirare l'attenzione dei maschietti, ma si tratta addirittura di distruggere alcuni attacchi di Satana alla Chiesa. Mi sembra che siano parole abbastanza grandi. Per cui, se qualcuna delle ascoltatrici, dopo aver sentito queste cose, si decide a mettersi il velo, sappia, se crede alle apparizioni della Vergine a Maracaibo, che ogni volta che farà questa cosa distruggerà alcuni attacchi di Satana alla Chiesa. Altro che gesto esteriore che non servirebbe a niente perché importanti sarebbero solo le disposizioni del cuore, mi permetto di commentare. Perché gesti esteriori, dal momento che l'uomo non è angelo ma è corpo e anima, specialmente gesti esteriori forti come questo, che in tempi come li stiamo vivendo ovviamente è un cazzotto allo stomaco, io lo capisco. Parla in maniera provocatoria, anche perché è talmente poco diffuso che se una donna poverina ha il coraggio di fare questa cosa, attira su di sé tutti quanti gli sguardi di tutti, però state attenti che questo coraggio sarà straripagato. Perché immaginate d'estate, magari, no? Cioè, in tante chiese dove non capisco come e perché, non si ha l'attenzione di far notare alcune cose, quindi se ne vedono di tutti i colori. Immaginate, come dire, la reazione che possa avere una donna vestita in maniera sconveniente o peggio ancora provocante in chiesa che si vede presentare una ben vestita e col velo in testa. L'immagine che questa donna vedrà non se la dimenticherà mai. Lei potrà dentro la testa potranno venire tutte quante le forme di disprezzo possibile e immaginabile verso questa malcapitata. Potrà dire: ma guarda questa, guarda come sta conciata, ma da quale libro di archeologia è uscita, eccetera, eccetera. Tutte le potrà dire, ma quell'immagine non se la dimenticherà mai più e la tormenterà nel cuore accusandogli in maniera implicita la propria indecenza. Questo, a mio avviso, è dato inoppugnabile. Quindi, che succede? Andiamo verso la conclusione, che i veggenti a un certo punto raccontano che in un'occasione una signora di origine anglosassone disse a questi due, dice, ma certamente la Santa Vergine, le apparizioni di Maracaibo sono in Venezuela, quindi si sta rivolgendo e chiede queste cose alle donne di cultura latina. La risposta di José Luis Mateus fu questa, e rispose ridendo, dice, guardi, mi dispiace signora, ma l'invito della Vergine a portare il velo è rivolto alle donne di tutto il mondo, così come tutti i messaggi che ci ordina di trasmettere. Lei ci ha detto che gli occhi di Dio, che agli occhi di Dio, tutti gli uomini sono uguali e il suo messaggio si applica a tutti ed è valido per tutti. Ecco, tanto per concludere l'argomento apparizione di Maracaibo, bisogna ulteriormente rilevare, ecco, che la Madonna in altri messaggi delle stesse apparizioni, senza porsi in dirittura di scontro frontale, diciamo così, contro alcune decisioni che prese da alcune conferenze episcopali circa prassi differenti, però ha manifestato il desiderio, non lo fa sempre in maniera molto delicata, cosa che costituisce tuttora un sacrosanto diritto di ogni fedele, questo dobbiamo ricordarlo, che la sacra ostia sia presa direttamente in bocca e possibilmente lei preferisce in ginocchio. Lo trovate sempre nelle apparizioni di Maracaibo. La Madonna non scende in polemica, va bene, non va bene, giusto o sbagliato, perché la Madonna non intende e non potrebbe neanche farlo, altrimenti non sarebbe la Madonna, come dire, prendere di petto nessuna decisione disciplinare della Chiesa, anche qualora fosse errata. Perché qualora questo fosse, compito della Madonna è pregare il Signore che faccia capire eventuali errori, magari anche in buona fede, errori di valutazione commessi a certi livelli. Però, fermo restando una disciplina di cui si prende atto, la Madonna dice, siccome non c'è nessuna forma di obbligo, per carità di Dio, e questo è sancito dai documenti della Chiesa, a differenza di queste cose, dice, potendo scegliere, preferisco che voi facciate così. E questo penso che la Madonna possa dirlo, che è la stessa cosa che io poi ho sempre cercato di dire a tutti i fedeli con cui sono entrato, in contatto. Quindi la Madonna in queste apparizioni sembrerebbe confermare pienamente la dottrina tradizionale, al 100%. Quindi il velo manifesta l'umiltà davanti a Dio, di cui ci si riconosce umili serve. Il velo serve ad umiliare l'orgoglio femminile che si manifesta nella vanità un po' eccessiva e che è foriero oggi di tanti peccati e di gravi scandali quando non viene controllato e tenuto a bada. E inoltre abbiamo quest'ultima notizia al fulmicotone, permettetemi di chiamarla così, che addirittura con questo gesto si distruggono alcune delle opere di Satana contro la Chiesa. Io mi ricordo benissimo, la prima volta che ho letto questa cosa, dico, oh santo cielo, speriamo che tante donne abbiano questo coraggio, che mandiamo in lutto l'inferno. Dico, ci vuole così poco, sorprendente, ci vuole così poco. Forza, allora, qui ci sono tante ascoltatrici in diretta, ci saranno anche, presumo, perché spesso accade, ascoltatrici in differita, questa trasmissione andrà in replica, su Radio Buon Consiglio. Tra qualche, forse già domani saranno disponibili sul mio canale YouTube il video, sul sito della parrocchia, la MP3, quindi non so quante donne ascolteranno queste parole. Se qualcuna di loro è coraggiosa, io rivolgo un'esortazione, che era il grido con cui si esortavano quando andavano in battaglia i soldati romani, a me è molto caro. Lo si ascolta anche in un noto recente film d'autore, che è appunto Forza e Onore. Forza vuol dire avere il coraggio di mettere in pratica e di affrontare il nemico. Onore vuol dire non indietreggiare qualora mi accorgessi che il prezzo del mio coraggio, comincia a dover essere pagato, perché chi indietreggia è un disonorato. Ecco, quindi per questo è Forza e Onore. Quindi, io invito liberamente, non si senta in colpa chi non se la sente, però chi sente questo nel cuore sia coraggiosa per Gesù e per Maria, perché contro i nemici della Chiesa, che sono tanti, sono soprattutto Satana e i suoi collaboratori, che oggi sembrano scatenati e furiosi più che mai, bisogna ergere dei baluardi e bisogna rompergli le uova nel paniere. Pare che con questo gesto, ripeto, a quanto sembrerebbe dire la Madonna di Maracaibo, apparizione a cui io personalmente credo, altrimenti non avrei parlato e me ne sono studiato abbastanza bene, e pare che con questo gesto si faccia la man bassa dentro l'inferno. Ecco, quindi gli nemici di Dio sono più furiosi che mai, non possono nulla però contro chi in tutto, anche in questo, fa la volontà di Dio e della sua Santissima Madre. Fare la volontà di Dio, l'abbiamo già accennato tante volte, non si limita ai 10 comandamenti. Ecco, chi desidera dilatare i propri orizzonti, aprire il proprio cuore in pieno all'Altissimo, abbraccia con amore anche queste esortazioni, che se non sono, ripeto, cose di fede o di morale, questione da cui dipende la salvezza eterna, hanno tuttavia un'importanza non da poco agli occhi di Dio, della Santissima Trinità e della Santissima Madre di Gesù, Maria Santissima, nostra Signora. Lascio a tutti la mia benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e vi do appuntamento, se credete, alla prossima settimana. Ave Maria.